il tesoro del tuo cuore. Inizio queste riflessioni con un'affermazione audace. Io so che cosa hai desiderato nel corso della tua vita. Cosa hai pensato oggi, cosa penserai in futuro. Per confermare quanto ho detto, leggiamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 6, dal versetto 19 a 21. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Per gli ebrei, il cuore non rappresentava i sentimenti come comunemente noi pensiamo, ma la volontà, le ambizioni, i desideri di una persona. Il discorso di Gesù è dunque questo: la tua volontà, i tuoi desideri, le tue ambizioni sono dove si trova il tuo tesoro. I tuoi pensieri sono dunque condizionati da ciò che consideri la tua ricchezza. Il tuo tesoro è condizionato dai tuoi pensieri. Poiché tesoro e cuore sono inseparabili, consideriamo l'influenza che ha il tesoro sulla tua volontà. 1. Il tesoro condiziona la tua volontà. Gesù ha detto: perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Gesù non ha specificato in che cosa consiste il tesoro, perché esso varia da persona a persona. Per qualcuno può essere l'oro, per altri lo sport, la carriera, il cinema, i figli, una casa, la salute. In Africa l'acqua vale più dell'oro, come in Italia certi calciatori. Il tesoro non è sempre condivisibile, come per esempio un indumento di un famoso artista che può valere miliardi. Ognuno di noi ha un tesoro, perché Gesù ha affermato: perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Gesù non è eccepito se il tuo tesoro sia veramente tale. Può anche non esserlo, ma il tuo cuore segue ciò che tu ritieni un tesoro. 2. Il tesoro che hai determina gli obiettivi della tua vita. Attori, professionisti, atleti condizionano la loro vita agli obiettivi che si sono posti. In un'intervista, Carla Fracci, una grandissima ballerina, ha affermato di aver dovuto sacrificare il suo matrimonio e il piacere di diventare mamma per non compromettere il più grande obiettivo della sua vita, diventare ballerina. Per una carriera un uomo può rinunciare al piacere di avere una vita familiare normale, e non solo, può perdere anche la fede. Un uomo che desidera costruirsi una casa valuta ogni spesa giornaliera in funzione del suo obiettivo. Il tuo tesoro determina ogni ambizione della tua vita. 3. Il tesoro che hai rende leggero ogni sacrificio. Vi sono scalatori che rischiano la vita pur di raggiungere una vetta sottoponendosi a condizioni quasi disumane. Qualcuno ci ha rimesso le mani o i piedi colpiti da congelamento, altri hanno perso la vita. Grandi uomini dello sport non si possono permettere ciò che un uomo normale fa: andare a letto tardi, mangiare più del necessario, prendere altri impegni, avere una vita sessuale regolare. Ogni obiettivo per essere raggiunto richiede spirito di sacrificio, disciplina, impegno e costanza. Nessun atleta ha ottenuto dei risultati validi o un record senza un duro e rigido allenamento. Il tuo tesoro fa sì che tu disprezza la sofferenza. Gesù stesso, per la gioia che gli era posta davanti, sofferse la croce disprezzando il vituperio. Ebi 12:2. Considera dunque come visse Gesù. 4. Tu sei stato creato per essere ricco. Gesù disse: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. L'amore di Gesù per te non è consistito solo nel morire al tuo posto, ma anche nell'indicarti quali sono i veri tesori. Parlavo con una ragazza di 14 anni invitandola a credere in Cristo, e lei mi rispose che rimandava la sua decisione perché prima voleva divertirsi. Le chiesi se, quando era piccola, si divertiva con le bambole, e ottenuta una risposta affermativa, le chiesi se ora ci giocava ancora. Dopo una breve riflessione capii: Ciò che lei riteneva importante, col passare del tempo, si rivelava superfluo. Tu sei stato creato per avere la vera ricchezza. Gesù disse: «E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?» Mark 8:36. Gesù ha sempre messo in evidenza dove sta il vero tesoro, il vero interesse, il vero patrimonio, sia spirituale sia materiale. Il tesoro è in fondo il vero motivo di ogni tua decisione. Adamo ed Eva mangiarono del frutto proibito perché per loro era fonte di ricchezza, perché volevano diventare come Dio. Ma il loro tesoro si rivelò falso, ingannatore. Ma è soprattutto nelle parabole del tesoro nascosto e della perla di gran valore che vediamo come Gesù invita l'uomo a scegliere la vera ricchezza. Mark 13:44-46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se ne è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. In queste due parabole Gesù mette in evidenza l'accortezza di chi sa fare i propri interessi. Nessuno lascia un bene se non in vista di uno migliore. Spesso il cristianesimo viene considerato, forse per colpa di chi lo presenta, come una vita povera piena di rinunce e di privazioni, ma questo distorce il principio di Dio che vuole che i suoi figli siano ricchi. Gesù non ti invita ad essere povero, di non farti dei tesori, ma ti ordina di non farti dei tesori che col tempo si rivelano fasulli. Gesù ti invita a farti dei tesori in cielo che dureranno per l'eternità. Se il cristiano non cerca di diventare ricco in questo mondo, secondo i parametri della ragionevolezza umana, lo fa non perché gli piace la povertà, cosa che non piace a nessuno, a meno che questa non dia qualcosa di meglio, ma lo fa per interesse, perché desidera avere un tesoro migliore e duraturo. Se tu sei stato creato per avere dei tesori, se il tesoro che hai determina gli obiettivi della tua vita, se il tesoro rende leggero ogni tuo sacrificio, la vita cristiana acquista un significato tutto nuovo, radioso. Se tu provi ammirazione per coloro che compiono qualsiasi sacrificio pur di ottenere un successo economico, se i valori spirituali sono veramente più importanti delle cose materiali, il tempo dedicato alla preghiera, alla lettura della parola di Dio, il tempo impiegato nella comunione fraterna, nell'evangelizzazione, nella cura pastorale, nel visitare i malati, sarà considerato prezioso e impiegato nel miglior dei modi. Se cerchi prima il regno di Dio, valuterai la vita cristiana con un'ottica diversa. Se consideri l'opera di Dio al primo posto, considererai le malattie come dei rimedi. Considererai le privazioni come parte di un sano regime. Considererai le perdite come dei guadagni. Considererai i problemi come sfide. Giungerai ad avere un'altra idea dei mali della vita. Quando leggiamo la biografia di missionari come Adoniram e Anna Judson, Giovanni Patton, Hudson Taylor, David Brainerd, David Livingston, tanto per citarne alcuni, i quali hanno sofferto prove indicibili, torture, prigionie, privazione dei figli e del coniuge, l'inevitabile domanda è come hanno potuto resistere a tali prove. Se leggiamo le loro testimonianze, esse hanno un denominatore comune. Essi avevano l'obiettivo di farsi dei veri tesori. Molto probabilmente queste persone hanno subito sofferenze e prove simili ai martiri politici, a certi studiosi, a tutti coloro che hanno dato e rinunciato a tutto pur di raggiungere lo scopo della loro vita, ma con una differenza. Mentre per questi ultimi vi erano una gloria e corona umana, per i missionari cristiani vi è una corona gloriosa ed eterna. Ciò che fa la differenza tra il cristiano e il mondo non sono tanto le sofferenze, ma gli obiettivi. L'obiettivo del mondo è la gloria umana, quello del cristiano è la gloria divina, una gloria contraria alla nostra inclinazione. E la gente del mondo che ricerca le cose terrene, lume mezzogiorno e mezzo. Ma l'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili. Is 32:8. Tra i grandi missionari ricordiamo William Carey. Egli scrisse nel suo diario: «Io credo che nessun altro essere vivente abbia sentito l'indolenza così acutamente come me». Carey è conosciuto per essere stato missionario in India e per avere, assieme ai suoi collaboratori, tradotto la Bibbia in più di 40 lingue. Ecco il resoconto di una sua giornata. Alle 5:45 si alzava per leggere un capitolo della sua Bibbia ebraica e per pregare. Alle 7 il culto in famiglia, in bengalese. Mentre aspettava la colazione lesse in persiano con un mursi e poi un brano delle scritture in indostano. Finita la colazione si dedicò alla traduzione del Ramayana dal sanscrito in inglese. Alle 10 andò al collegio per le lezioni fino alle 2 del pomeriggio. Ritornato nella sua abitazione, lesse le bozze della sua traduzione del libro di Geremia in bengalese. Dopo il pasto tradusse in sanscrito quasi tutto l'ottavo capitolo del Vangelo di Matteo. Alle 18 studiò accuratamente la lingua con un pundit telugu. Alle 19:30 predicò in inglese ad una congregazione di 40 persone. Alle 21 tradusse il capitolo 11 di Ezechiele in bengalese per quasi 2 ore. Dopo scrisse una lettera. Infine, dopo aver letto il suo Nuovo Testamento in greco per un suo personale bisogno di raccoglimento e preghiera, se ne andò a letto. Se non avesse avuto obiettivi, William Carey non si sarebbe impegnato in questo modo. Senza obiettivi non si va e non si arriva da nessuna parte. La vita è trascinata, si vive la giornata, ogni cosa non ha senso, si è demotivati. William Carey è anche ricordato per le seguenti sue parole. Aspettati grandi cose da Dio. Compi grandi cose per Dio. Nessuno può compiere grandi cose per Dio se è sedotto dalle cose del mondo. Nessuno può servire due padroni. Non si può servire Dio e il denaro. Dio è il padrone, il denaro è l'altro padrone. Non possiamo servire Dio e pretendere di avere quello che hanno gli altri. Gli altri hanno denaro per ogni capriccio, il cristiano no. Gli altri hanno tempo da perdere, il cristiano no. Gli altri possono avere una vita individualista, il cristiano no. Gli altri il giorno del riposo possono fare quello che vogliono, il cristiano no. Gli altri non trovano il tempo per leggere e pregare, il cristiano sì. Se come cristiano non hai l'obiettivo di diventare missionario, predicatore, anziano di una chiesa, evangelista o qualcos'altro di importante, per te vi è un obiettivo comune a tutti, farsi un tesoro in cielo. Colui che trascura o perde la possibilità di farsi tesoro in cielo, di ottenere un premio, una corona. Trascorrendo una vita cristiana senza frutti, senza consacrazione, senza riconoscenza, commette uno dei più grossi errori, i cui effetti saranno visibili per l'eternità. Ho partecipato al primo convegno di Losanna ed ho udito meravigliosi messaggi. Sapevo che col tempo non avrei potuto ricordarmi tutto, così mi sono prefissato di portare a casa una sola verità. Ecco ciò che tengo ancora oggi nel cuore. La vita è come una moneta. La puoi spendere come vuoi, ma una volta sola. LAVITAE DUNQUE UNTSORIONISTIMABILEDINVESTIRE. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. LETUESCELTERIVELANOCHISEI. La cosa importante riguardo ad un uomo non è dove andiamo quando siamo costretti ad andare, ma dove andiamo quando siamo liberi di andare dove si vuole. Gli apostoli andavano in prigione, e questo non è sufficiente per rivelare il perché vi andassero contro la loro volontà. Ma quando essi uscivano dalla prigione e andavano dove volevano, immediatamente si aggiunsero a coloro che pregavano. Da questo impariamo qualcosa riguardo a loro. Le scelte della vita, non le coercizioni, rivelano il carattere. Un uomo è assente dalla chiesa la domenica mattina, dove sarà? Se egli è in ospedale per una operazione, la sua assenza non dice nulla riguardo a lui se non che egli è ammalato. Ma se egli si trova in un campo di golf, allora la sua assenza ci dice molto. Essere ricoverati all'ospedale è coercitivo, andare al campo di golf è volontario. L'uomo è libero di scegliere ed egli sceglie di giocare invece di pregare. La scelta rivela ciò che egli è. Le scelte rivelano sempre la natura dell'uomo.